In collegamento telefonico con Giovanna Tanzarella di 12 Entertainment per parlare del film Hostile di Mathieu Turi, in uscita in sala il 26 luglio. Giovanna, ben trovata. Ben trovato a te Federico, buongiorno. Diciamo qualcosa della trama? Allora, Hostile si svolge dopo un'epidemia planetaria in cui la maggior parte della popolazione è morta. Ci sono solo pochissimi sopravvissuti che lottano ogni giorno per trovare cibo e riparo, però non sono soli. E quindi ci sono queste strane creature che si aggirano tra di loro, a cui loro ovviamente devono sfuggire e a cui devono far fronte perché anche loro sono molto affamati. E quindi Juliet, che è una giovane donna che è la protagonista reale del film, è una vera lottatrice e durante il film cerca proprio di procacciare cibo per lei e per il suo gruppo che ha trovato riparo. E un giorno in realtà il suo furgoncino esce fuori strada e da qui diciamo parte il racconto anche di Juliet prima di questa epidemia. Quindi c'è un continuo flashback nel passato e poi al presente nella situazione che Juliet deve affrontare. Sì. Giovanna, cosa vi aveva convinto del film? In realtà subito tutto. Abbiamo acquisito il film sulla sceneggiatura. Abbiamo creduto immediatamente alla storia e siamo stati, diciamo, ripagati nel momento in cui abbiamo visto il film. Il film ha partecipato nell'ultimo anno a tutti i più importanti festival internazionali di genere e molti in modo vittorioso. Anche al Trieste Sci-Fi abbiamo vinto, insomma, il premio datoci da Notturno, prime visioni, quindi siamo molto contenti. Il film ha avuto un bel riscontro di critica in tutti i festival internazionali. E adesso arriva in Italia il 26 luglio, come dicevi tu. Di Mathieu Turi cosa sappiamo? Allora, è la sua prima opera come regista. In realtà lui ha partecipato come co-regista a tantissime produzioni importanti. Ha lavorato con Guy Ritchie, con Tarantino, con Clint Eastwood, con Woody Allen, film come Sherlock Holmes 2, Lucy, Inglourious Basterds, G.I. Joe. Cioè è un regista che con quest'opera, diciamo, esordisce come unico regista, ma ha già una carriera lunga in produzioni hollywoodiane molto importanti. Che tipo di uscita sarà? Allora, sarà un'uscita da 26 di luglio in cui escono 8 film in questa settimana e quindi per una società come la nostra è a spalleggiare con tanti. Quindi sarà un'uscita in circa 40 sale, non tantissime, però abbiamo cercato di avere sale un po' in tutte le regioni. Sulla nostra pagina Facebook c'è insomma il post con tutti i cinema che ospitano il film. Speriamo che il film resista in sala perché secondo noi è un buon film, ha tutta un'atmosfera molto particolare alla Mad Max, insomma, con delle ambientazioni molto belle nel deserto, insomma, una bella colonna sonora. Secondo noi ha tutte le caratteristiche per avere un buon riscontro. È chiaro che insomma siamo in compagnia di tantissimi questa settimana e quindi dobbiamo un po' spalleggiarci. Bene, ricordiamo l'uscita in sala di Hostile di Mathieu Turi. Dal 26 luglio al cinema. Un saluto e un ringraziamento a Giovanna Tanzarella di 12 Entertainment che lo distribuisce. Giovanna, un abbraccio, a risentirci presto. Anche a te, mille grazie Federico, ciao ciao. Ciao.